Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oggi viaggio sicurissimo. Perché? Perché ho visto ben due persone in divisa nel mio stesso scompartimento. Sono gli antipodi, su due sedili contrapposti, ma su file lontane. Sono assorti e guardano fuori dal finestrino come qualsiasi altro viaggiatore. Hanno due divise, descriverò la prima per lasciarvi la sorpresa della seconda. Il primo è un carabiniere, in tenuta perfetta da parata, quindi probabilmente sta andando a un appuntamento importante. Dovrà incontrare qualche alto ufficiale, dovrà partecipare a un evento pubblico. Come tutti i carabinieri quando viaggiano in treno, non porta il cappello in testa, ma lo tiene appoggiato con cura e devozione sul tavolino di fronte a lui. Tu avrai conosciuto tantissime persone al di fuori della legge, chiamiamoli così. Sì. E qual è quello che ti ha più colpito? Ma guarda, io in molte occasioni ho avuto la possibilità di incontrare tante persone che comunque con la mia professione, però principalmente due uomini mi avevano colpito molto. Diversi fra loro, però molto simili, mi verrebbe da dirti due facce della stessa medaglia, entrambi molto noti alle cronache nazionali, sia perché erano dei leader incontrastati dei loro clan camorristi a quale appartenevano, e anche e soprattutto per l'efferatezza delle loro azioni criminali. Il primo era una persona di mezza età che dopo l'arresto divenne collaboratore di giustizia. Una persona molto intelligente, colta, fine anche nei modi e nel portamento. Una persona anche pronta alla battuta, vestita elegantemente. Non in modo vistoso, pacchiano, però molto elegante. Cioè, se io lo incontravo per strada e non sapevo chi fosse, sarebbe per me stata una persona qualsiasi, anche uno simpatico. Assolutamente sì, una persona sotto quel profilo, sicuramente sì. Una persona comune. Amante comunque dell'auto di lusso, frequentava i lussuosi locali più lussuosi sia internazionali che nazionali. Mi verrebbe da dire quello che nei film viene descritto come il boss che si gode la vita, la parte luminosa del male, a me sono un concetto che possa essere della luce nel male. Quegli eroi fighi di Gomorra, quelli che vestono bene, raffinati nei gusti, che ho capito il soggetto, sì. Sì, una persona simile. Mentre invece il secondo era un po' diverso, ma allo stesso tempo uguale. Una persona anziana, contava gli arresti domiciliari, la pena che gli era stata inflitta. Quando lo si incontrava, se si riusciva per un momento a dimenticare il fatto che fosse un criminale, quindi comunque una persona che non aveva rispetto per la vita altrui, sembrava quasi che improvvisamente si materializzasse una figura di una commedia, un personaggio di una commedia all'italiana, perché comunque lui era una persona sicuramente carismatica, ai suoi familiari e ai suoi affiliati non parlava, si rivolgeva a gesti, le parole le centellinava, e quando parlava sempre sottovoce o a monosillabi, con un po' di distacco, ecco, con distacco e sufficienza. Quasi come se fosse un nobile che si rivolgesse alla plebe, ecco, parafrasando. Beh, due bei personaggi comunque, hai ragione, ecco perché hai detto complementari, perché uno rappresentava, sì, rappresentava un mondo e uno un altro, però facevano più o meno le stesse cose. Sì, due facce della stessa medaglia. quando si andava a controllare per gli arresti domiciliari, per verificare se rispettasse l'obbligo, questa persona si trovava sempre sbarbato, profumato, vestito elegantemente. Di notte addirittura si presentava con la vestaglia da notte e la retina nei capelli per tenerli in ordine. No, nulla di ridicolo. Cioè proprio... sembra un film esatto, di mafia. Esatto, sì, il foulard intorno al collo, le ciabatte da notte diverse da quelle di giorno, perché chiaramente... E poi quando a aprire veniva sempre la moglie, che veniva inviata dal marito a prepararci un caffè, cosa che noi rifiutavamo sempre, però comunque era... Così, sembrava di immergersi in un vecchio film degli anni 40-50. Quindi immagino tutto un linguaggio fatto di sottintesi, di cordialità, che però uno che non si faccia certo prendere in castagna in un controllo domiciliare, sicuramente. Assolutamente, assolutamente. No, infatti lui era sempre presente, non ho mai, almeno quando lo andavo a controllare io o altri colleghi, non è mai successo che non lo si trovasse in casa, ecco. Non era la persona che poteva evadere dagli arresti domiciliari, no? Non gli interessava, ecco. Senti, però ci sono stati invece degli episodi in cui te la sei vista brutta, hai rischiato, hai detto adesso sto per lasciarci la pelle, qualcosa del genere, ti è successo? Voglio dire, svolgere questa professione è comunque un rischio costante, non, dal stesso momento in cui una persona esce di pattuglia o si mette addosso l'uniforme, comunque la sua vita è in pericolo. Normalmente mi dovrebbe dire anche quando si è fuori dal servizio, perché comunque non si rimane indifferenti al mondo che ci circonda. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Sì, in un paio di occasioni ho avuto sicuramente momenti brutti, in più di un'occasione, però quelli un po' più eclatanti sono stati il 2010, quando senza nessuna motivazione un pregiudicato, per opporsi al controllo normale di polizia di documenti, mi procurò la lesione dei legamenti del ginocchio destro. Cos'era, un posto di blocco? Dov'era? Sì, era un posto di controllo normalissimo. Eravamo stati chiamati perché erano state segnalate delle persone che molestavano delle ragazze, delle persone ubriache. Era tutto vero e noi avevamo riportato la calma, però in realtà una persona di queste non era molto contento del fatto che noi cercassimo di tranquillizzarli, ecco. E che ti ha fatto? Come ha fatto? Mi ha rotto i legamenti crociati della gamba destra, mi è saltato addosso e quindi io l'ho arrestato senza togliergli un capello, chiaramente, perché non è... Il mio lavoro consiste proprio nel far sì che le persone non si facciano del male, anche a costa di scapito della propria incolumità fisica, ecco. E la seconda volta invece, anche questo abbastanza recentemente, ero in un palazzo per delle questioni private, mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, infatti c'erano due cittadini dell'est che stavano forzando la porta d'ingresso di una persona che abitava nel palazzo. E anche lì in quell'occasione non sono stati molto contenti di trovarmi, ecco. Mentre io fronteggiavo l'uomo, la ragazza da dietro mi ha colpito con calci e pugni alla schiena, al braccio, fino a rompermi un braccio, e anche in questo caso l'ho arrestata senza torcergli un capello, ecco. Ho semplicemente messo in atto quello che è previsto dal regolamento, cioè cercare di fermare le persone senza procurargli nessuna lesione. Però loro a te le hanno procurate? Io ci ho rimesso un braccio, un polso e una gamba. Quindi, diciamo, lo scontro fisico, il corpo a corpo non è escluso. Uno immagina che certe cose facciano parte dei film, ma è forse più vicino al quotidiano questo che gli inseguimenti, le sparatorie e via dicendo. Molte volte sono colluttazioni, sì, brutte, corpo a corpo, con persone cattive, in cui non puoi nemmeno reagire come... ti verrebbe l'istinto di fare, ma devi sempre controllarti, perché il tuo dovere è quello di metterle nelle condizioni di non nuocere, ma senza far loro del male. Assolutamente sì, cosa che io infatti ho fatto fino in fondo, a discapito anche della mia incolumità fisica. Oltretutto poi queste persone, nell'ultimo caso, mentre la ragazza cercava di colpirmi, urlava aiuto, aiutatemi, un pedofilo vuole violentarmi, per riuscire a far sì che le persone magari aprissero la porta, uscivano, si creava un minimo di trambusto così che potessero poi darsi alla fuga. Ecco, quindi c'è, c'è una bella strategia intorno, capito? Ah, sì, beh, la ragazzina mentre ti menava dice aiuto, aiuto, vuole violentarmi. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. Sì, perché comunque se senti una donna urlare e poi soprattutto se senti frasi di questo genere, normalmente viene da vedere chi è. In quel caso nessuno uscì, quindi comunque forse perché non c'era nessuno nelle case, negli appartamenti vicini, forse perché comunque le persone hanno un po' di paura, ecco. Però la sua strategia era quella, non cercare di far uscire più persone per tirare il trambusto e poi potersi dare la fuga. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ecco, se è possibile ricordarlo, ma in quel momento cosa si pensa? Perché una persona che fa attività normali è difficile che entri nella mentalità in cui ti trovi, in una situazione che è complicato, le due persone vogliono farti del male, tu però non sai fino a che punto. La ragazzina potrà averci un coltello, potrà farti molto più male, però tu devi stare molto ricordarti che tu comunque sei appartiene alle forze dell'ordine, quindi non è che puoi reagire, gli puoi sparare ad esempio, non puoi far questo, quindi stare molto cosa si pensa, qual è il pensiero ti viene in quel momento? Il pensiero è cercare di riuscire a far cessare quella situazione il più velocemente possibile, nel cercando di non procurare lesioni a chi ti sta di fronte, anche se chi ti sta di fronte in quel caso sta cercando di procurartele, e portare a termine quello che stai facendo. È chiaro che è tutto più difficile, perché comunque il non poter, il dover contrastare senza difendersi in È molto difficile. Sì, è molto difficile, perché poi comunque, ripeto, al di là del fatto che non è una coscienza, quindi poi bisogna riguardarsi allo specchio, di conseguenza le azioni poi rimangono. Però sì, non è una situazione facile e i pensieri sono molteplici. Molte volte in quei momenti ti vengono in mente anche la tua famiglia. Ecco, tu adesso da quello che dici mi viene a pensare, sono tante le cose a cui ho dovuto rinunciare per fare questo mestiere. Beh sì, sicuramente sì, nel momento in cui uno si arruola è conscio che le rinunce ci sono. Voglio dire, per quanto riguarda l'arma, l'essere destinato, anche se solo temporaneamente, lontano da casa, dagli affetti dei propri cari, comunque rappresenta una rinuncia, forse la più grande. Il fatto che noi siamo presenti in tutto il territorio nazionale e che quindi possiamo svolgere il servizio sia nei grossi centri, quindi nei capoluoghi di regione, di provincia, oppure nei piccoli centri, comunque fa sì che ci si impegni maggiormente. Nel piccolo centro, sia di giorno che di notte, il carabiniere comunque rappresenta l'unica certezza di poter ricevere un aiuto in caso di bisogno. Noi comunque siamo nella stragrande maggioranza dei casi, in 5.000 stazioni, siamo fuori dai grossi centri, siamo presenti ovunque. La presenza della Polizia di Stato nei grossi centri fa sì che magari ci sia la possibilità di essere un pochino meno impegnati dalla popolazione, non parlo tanto del servizio, parlo del qua, sei fuori dal servizio, perché comunque si ha la possibilità di rivolgersi a un più ampio numero di agenti di pubblica sicurezza e quindi si può curare con più frequenza i propri interessi, i propri affetti, rispetto a tutto il resto. Il rovescio della medaglia qual è? Diciamo, qual è le grandi soddisfazioni, le cose belle che accadono facendo un mestiere molto difficile, a volte non sempre percepito come qualcosa di positivo? Immagini quando si vede quegli arresti che si fanno nei vicoli di certe città in cui tutta la popolazione interviene ma aiuta il malvivente a scappare e si rivolta contro le forze dell'ordine. Ecco, ci sono invece dei momenti che ricordi con piacere, con soddisfazione? Ma sì, certo, il grazie che le persone nel momento in cui le aiutate dicono, ti danno, ti donano. Il fine del servizio è riuscire a dare una risposta alle esigenze del cittadino. e di conseguenza penso che questo, il grazie o il riuscire a dare una risposta a quelle che sono le esigenze ricompensano un po' di tutte quelle notti che uno può passare al freddo, di pattuglia, a piedi, il vedere, il sentire il calore che le persone a cui hai comunque dato una mano, un aiuto in qualsiasi modo, o risolvendogli il problema o prodigandosi comunque per risolverlo, il loro grazie è sicuramente la ricompensa più importante. Ecco. C'è ancora questa idea che portare una divisa aggiunge fascino, una persona, un uomo, ti vedo qua nello scompartimento del treno in divisa, in fondo c'è un alone di rispetto ma anche di ammirazione, la gente comunque guarda, ecco, il fascino della divisa è ancora valido, esiste ancora questa idea generale, oppure è più impegnativo metterla, è più pesante metterla piuttosto che andare in borghese? Ma il fascino dell'uniforme sicuramente ritengo che possa esistere ancora. Io al di là del fatto che la fisicità di ognuno di noi o contribuire ad aumentarla o a diminuirne il fascino, io comunque ho tanti amici che sono contenti quando vedono una donna carabiniera o una donna poliziotto uniforme, in qualche modo secondo loro esalta oppure comunque rende più piacevole. Io ho 25 anni che sono nei carabinieri, quindi non lo so, ecco, il fascino presumo comunque di sì, ritengo di sì. Adesso avete anche le colleghe, la novità, vedere le donne carabiniere, ancora non ci sono abituato io. Però è una cosa piacevole, perché è uno dei simboli più legati al nostro orgoglio nazionale, vederlo la divisa del carabiniere addosso a una donna, è una bella impressione. Sì, sicuramente, sì. D'altro canto era anche giusto, non pare di essere. Ma certo, più che giusto. Buon viaggio allora, grazie. Grazie a lei. In bocca al lupo, a presto. Grazie a lei. Ed ecco il secondo uomo in divisa, è tutt'altra divisa, è la divisa di una guardia giurata, un vigilante come diremo oggi, è una divisa impapocchiata, inventata, è una divisa fantasiosa, io penso che vigilantes possano acquistare in negozi specializzati quello che vogliono, sentirsi ciò che vogliono, soprattutto quelli che appartengono a piccole cooperative private. In questo caso lui ha avuto una citazione di tenuta quasi da combattimento, perché porta gli anfibi, è quasi estate. Ha una tuta che potrebbe somigliare a una tuta da incursore, ha un grosso cinturone, anche lui ha un cappello, ma il cappello lo tiene spavaldamente in testa, è un basco, sembra quasi il basco di un legionario. Ci eravamo lasciati in un treno qualche settimana fa, mi aveva raccontato la storia della sua fuga dal mondo civilizzato, della sua scelta nella legione straniera, del suo atroce combattimento e naturalmente dell'unico risvolto piacevole della dura e cruda vita del legionario, delle sue donne. Dopo quanti anni ancora te le ricordi, ancora ne senti la nostalgia? Ancora adesso. Diciamo, di signorine disponibili a pagamento le trovi anche nel tuo paese, penso, no? No Gianluca, non è la stessa cosa, perché queste non erano le vabbè, ora parlando fuori dei denti, così non sono le battone che trovi sulla strada o in casa chiusa che vai paghi la marchetta, non è la stessa cosa, perché erano con Vania specialmente, 2 anni che sono stato lì a Coruru, in Guyana francese, e c'era instaurato proprio un rapporto quasi da fidarsi, ma che c'entra, io lo so che poi andava anche con altre persone. Sì, però c'è una tenerezza, una nostalgia. C'era quella tenerezza, quei gesti, quelle cosine carine. Infatti una sera quando arrivai lì a questa bettola e non la trovai, ero in franchigia per 2 giorni e sei rimasto male? Sì. Non c'era, ci rimasi male, poi mi informai e il padrone della bettola mi disse no guarda, l'hanno rapinata, l'hanno malmenata, adesso è a casa. Io sapevo dove stava lei di casa, perché più o meno sapevamo tutti, però nessuno si azzardava. E non sei andato a trovarla che stava male? Sono andato a trovarla, e mi sono fatto spiegare cosa era successo, perché c'era proprio della tenerezza, e quando senti quello che era successo, chi era stato, io l'andrei a cercare questo. E l'hai vendicata? Sì, lo randellai bene, perché no, non si toccano le donne. E chi era questo? Un altro militare? No, era un balordo, perché lì in Guyana c'è un alto tasso di criminalità, c'è tra tossicodipendenza e microcriminalità varia, insomma, sono postucci. E lei l'aveva ridotta male questa ragazza? Sì, l'aveva ridotta, gli aveva fatto molto male, gli aveva rotto un braccio, poi gli aveva fatto un trincio sul viso perché... Ah, l'aveva sfregiata? Sì, perché poi c'era, poi dopo sempre c'era, insomma... Quindi era il suo protettore praticamente? No, questo non me l'ha mai detto. Di solito è il magnaccia che sfregia la sua donna se non porta abbastanza. Ma non so, lei non mi vuole dire la ragione vera e propria. So che comunque quando andai a casa sua c'aveva un taglio di 6 cm sulla guancia. L'aveva sfregiato. E poi più gli aveva spezzato un braccio. Perché... E tu invece a lui cosa gli hai fatto quando l'hai preso? Gli ho fatto male, gli ho fatto molto male. Ora questo... sorvoliamo, comunque gli ho fatto male. Vabbè, tanto sta in Guyana, figurati, non saprà manco chi eri, figurati se sente. Vabbè, però... No, ho usato il rasoio, Ah, l'hai tagliuzzato, vabbè, pensavo di rimesso, poi no, sei andato di... No, è una cosa che mi insegnarono quando si deve... Ora, vabbè, detto così è brutto. No, ma però spiega, però è una tecnica che non... Quando c'è da far parlare una persona, quando c'è... Ah, l'hai torturato praticamente? L'ho tagliuzzato. Ma dove si tagliuzza? Ci sono varie tecniche. Comunque si bloccano polsi dietro la schiena e quello che tu hai a disposizione. E poi si incide la carne un paio di centimetri sopra il capezzolo, o destro o sinistro, in maniera che la fuoriuscita del sangue... Spaventa. Ferita non è mortale, però insomma ti fa star male, cioè la persona, cioè il dolore amplificato. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi gli ha fatto sto lavoretto, vabbè, poveraccio. Gli ho lasciato un bel ricordino. Vabbè. Non credo che si sia più presentato dalle parti della base. Vabbè, gli hai dato una lezione. Vabbè, sai, era in un altro mondo, un'altra dimensione. Non sto qui a giudicare, e secondo me in un posto dove può accadere anche questo. Quindi. No, ma lì sono posti, se posso usare una parola un po', lì sono posti di merda. Beh, perché... Per quello che stai raccontando non era certo un paradiso per andare in vacanza con i bambini, comunque. Ma se tu apri una guida turistica ti ci invogliano ad andare in questo territorio d'oltremare, perché poi come posto non è brutto. La Guyana francese è, dal punto di vista del territorio, molto bella, molto verde. Poi Coruru si affaccia su questo fiume che è splendido. Poi tu sei sul mare, no, la zona è bella, è che un terzo della popolazione della Guyana sono discendenti della Cayenne, perché lì c'è la Cayenne, c'è ancora, però non c'è più il carcere. Quindi sono figli, diciamo, degli ergastolani, del peggio? Sì, gente mandata lì che c'è stata 10 anni, 15 anni, 20 anni, ma 10 anni alla Cayenne non sono come 10 anni, che ne so, a Regina Coeli a Roma. Ora non so dove è Regina Coeli, se a Roma o a Milano, ma comunque... No, Regina Coeli è proprio qui vicino dove sto io adesso in questo momento, quindi... Non sono 10 anni in un carcere normale. Lì ti riducevo una bestia. Sembra di vedere il film Papillon, capito? È una cosa. È una storia celebre. Quello è uno dei pochi film che rispecchiava molto la realtà di questi carceri coloniali. E insomma, comunque, quando venni via da lì, dalla Guyana, che ritornai sul territorio francese. E anche lì conobbi una ragazza con cui ci frequentammo, ci si mise insieme, siamo stati insieme in un certo periodo, sia durante l'acquartieramento in Francia, sia poi quando sono andato in Libano, poi tornai di nuovo in Francia. ci eravamo messi insieme, avevamo fatto coppia fissa, stavamo bene, però si chiama Michelle, credo che sia ancora viva anche lei, ora sono passati degli anni. Però lei era dipendente dell'Armée de Terre, dell'equivalente dell'esercito francese, dell'esercito italiano. E, però insomma rimase in stato interessante. Lei non voleva portare avanti la gravidanza perché se no toccava interrompere la carriera e quando abortì finì la cosa. E tu l'hai lasciata? Che volevi fare? Ma ce n'è una, diciamo, che è andata normalmente? Sono stato molto fortunato in quegli anni lì. Anche quando andai in Somalia mi ero innamorato, anche lì, perché io c'ho l'innamoramento facile. D'una somala te l'hai innamorato? È una bella ragazza nera, con la pelle d'ebano, era bella. Beh, lì così stanno, da quelle parti così le trovi. No, vabbè, che c'entra, io non voglio fare fascinerie su discorsi etnici o caratteri somatici, però le somale sono belle, hanno questa fronte ampia, questo corpo alto, slanciato. Chiedilo ai nostri nonni, lo sapranno bene. Porca miseria, ma d'Africa per noi italiani è nato lì. E quindi quanto è durato con la somala? Il tempo che rimase lì in Somalia. Anche lì... Una bella storia d'amore questa, almeno, spero. Sì, è rimasta nel cuore di tutte e due, però poi dopo, anche lì, quando venne via dal primo turno in Somalia e ritornai... Non te la sei portata con te, non l'hai lasciata lì? No, ma non ti potevi neanche sposare. Ah già, no, quegli anni, in quel periodo lì non ti potevi... In quanto legionario non potevi, sì. E non ti viene tentazione di andarla a trovare? Che fine ha fatto? Una fidanzata? No, non ne sono più interessato. Qualche lettera, siamo scambiati qualche pistola negli anni successivi al 96. E vedi, ancora non c'era internet, oggi vi scrivete su WhatsApp. No, adesso saremo scritti con, come si chiama? WhatsApp, no, Messenger. No, per internet, con Skype. Con Skype, ecco. Ora avremmo usato Skype. No, vabbè, ora. Beh, meglio, così te la sei dimenticata, sennò sei il tipo che conserva troppa memoria degli amori passati. Io non le dimentico mai del tutto, queste donne. Vabbè, è importante che non ci stai male, poi puoi anche pensarci. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Adesso sei tornato al paesello e fai la guardia giurata. Ecco. Come puoi adattarti comunque alle ragazze di paese, alle compagne di lavoro, a quelle che puoi trovare nei locali, dopo allora, questi tragici, infiniti e cruenti amori del tuo passato di legionario? Allora ti dirò un segreto. Io mi sono sposato dopo qualche anno che tornai in Italia. Il segreto lo saprà il mondo se è sposato. Difatti è una battuta. No, mi sono sposato con una donna che è meravigliosa. Sei tranquillizzato, quindi fai una vita tranquilla adesso. Sì. Ma i ricordi non è che ammazzano nessun amore, tu vivi nei tuoi ricordi, c'è un'attualità diversa, è un passo diverso. Sì, perché se tu vuoi portare avanti una famiglia devi fare così per forza. Però ogni tanto mia moglie mi punzecchia, mi prende un po' in giro, perché alcune cose le ho raccontate, altre insomma... Altre le sentirà per radio adesso? No, quindi... spero di no! Spero di io no! Io spero di no! Questo fa parte del gioco, se parli qualcuno potrebbe ascoltare. Vabbè, mica hai detto nulla di male, hai detto benissimo di lei. Uno mica può fare l'ipoteca sul passato di un uomo, poi... Se ti ha sposato sapendo che hai fatto il legionario, non poteva pensare che hai fatto il gesuita, è un'altra cosa, o perlomeno. No, gesuita no, però insomma neanche alcune cose insomma le ho tenute per me. Vabbè, ma comunque fa parte sempre del passato, non è che... Personalmente non mi vergogno di nulla. Vabbè, sai, le chiacchiere fatte così con una persona che incontri per caso in treno lasciano il tempo che trovano, finisce la loro realtà e la loro affidabilità quando il treno si ferma e cambi stazione, quindi statene tranquillo, anche se hai detto cose che non volevi dire, probabilmente nessuno se le ricorderà semplicemente fra una settimana. Ti saluto, grazie, in bocca al lupo, buon viaggio, alla prossima. Ciao, buon viaggio.

Ci allontaniamo senza dire ti lascio. Ci sentiremo spesso, ma non torneremo più insieme. Mio caro, cominci a conoscere qualcosa del tuo randagio e fedifrago animo maschile. La continuità affettiva ci appaga, la continuità affettiva ci gratifica, ma a un certo punto, quando la raggiungiamo, diventiamo improvvisamente rapaci di cercare qualcos'altro. Pensiamo, ci illudiamo, siamo sicuri di poterci permettere qualunque cosa, pensiamo che noi sia come bere un bicchiere d'acqua e quindi beviamo un bicchiere dopo l'altro, di nascosto, finché l'oggetto del nostro affetto, finché la tutelatrice della nostra serenità sentimentale se ne accorge e ci manda a quel paese. Questo ti è successo e quindi imparerai ad essere più accorto la prossima volta, ammesso che tu ci tenga ad avere una continuità affettiva. Conosco quest'altra ragazza di un anno più grande di me. È subito amore e passione. Vivo per qualche mese un rapporto intenso con lei, che ha un passato importante di cui non voglio sapere nulla. È una persona intelligente, simpatica e bella. Ci innamoriamo. Una donna adulta che cercava un uomo adulto in un ragazzone nerd. Poi, come sempre nella vita, le cose precipitano. La crisi dei 40, comprare casa dopo anni di tentativi, le onnipresenti questioni in famiglia. Lascio allora questa seconda ragazza, quella perfetta per me, per risolvere tutti gli appesi della mia vita. Ci vuole tempo per sistemare tutto quel marasma che avevo dentro, ma ci riesco. Dopo 4 mesi sento di essere finalmente pronto a quell'idea di rapporto che sono riuscito a ripulire da tutti gli psicodrammi degli ultimi anni. La chiamo quindi e quando la sento sono felice. Erano anni che non mi sentivo così. Quando ci vediamo lei mi lascia parlare. L'ho delusa, allontanata, l'ho fatta soffrire. Alla fine mi racconta di come sarei invaghita di un altro. Provo a essere presente nei mesi successivi. Provo a chiederle di uscire, ma sono io l'incomodo. Le nostre vite si separano così. Innamorato di una donna che non sento più. Un amore che ho rovinato con le mie mani. Di positivo c'è che quel ragazzone un po' nerd è andato via. Quella donna mi ha fatto il regalo più bello. Quello di avermi fatto capire cosa significa essere uomo. È incredibile quanto le donne riescano a renderci migliori di quello che siamo. Gianni. D'ecco il secondo errore, mio caro. E non so esattamente se devo darti un consiglio. Nemmeno ho capito se tu mi chiedi consigli. E nemmeno sono certo se poi sia in grado di darti consigli. Cosa vuoi? Questa poteva essere la donna ideale per una continuità che durasse per un periodo indeterminato la tua vita, forse per sempre, forse magari per molti anni. Era la donna con cui ti potevi felicemente accasare. Probabilmente era un incastro giusto per fortificare la tua autostima, per vivere una vita senza pensieri, per poter tranquillamente dire ho una stabilità sentimentale, ma anche, diciamo, di status civile. Non ti è bastato, hai fatto il furbetto, l'hai lasciata perché potevi sentirti ancora una volta in grado di lasciare riprendere chi volevi, di fare esattamente l'operazione che hai fatto con la precedente donna importante della tua vita, di dire ma faccio un po' i fatti miei, poi magari me la riprendo, magari è lì che mi aspetta. Ma tu pensi davvero una donna ti stia ad aspettare? Tu pensi in un momento come questo, in cui l'orologio biologico viaggia così veloce, una donna lasciata chiaramente in nome di un'altra donna, perché per questo l'hai lasciata, anche se non me lo scrivi, l'hai lasciata perché ti eri incapricciato, volevi cambiare la minestrina riscaldata, avevi voglia di far qualcos'altro, dicendo ma tanto è lì che mi aspetta. Cosa pretendi? Che adesso ti riprenda? Lei naturalmente ha spento l'interruttore con scritto il tuo nome e ne ha acceso un altro. Comincia un'altra storia. È vero, tu sei l'incomodo, tu sei quello che si va a inserire in una vita che ormai più non ti appartiene. Cosa vuoi fare? Leccati le ferite, vai avanti, cercati un'altra donna e poi deciditi, vuoi fare il puttaniere a vita o vuoi fare il bravo marito a vita? Si possono fare anche tutte e due le cose insieme, ma è un mestiere che bisogna imparare e di solito si impara troppo tardi per poterlo poi mettere in pratica. Questo devi ricordartelo. Avete ascoltato Il treno va. Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.